Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. A proposito della proposta di boicottare la partita Italia-Brasile, senza rendersene conto, il ministro della Difesa ha spiegato come funziona un boicottaggio. È un atto individuale e non statale. Lui rinuncia ad andare, perché la sua scelta dovrebbe impedire a tutti, anche chi non è d'accordo, di godersi il match? I boicottaggi di Stato penalizzano i cittadini di entrambi i paesi, limitando il libero scambio di beni e servizi. Naturalmente i politici non hanno nulla da perdere sul breve periodo. Simone. Se si disputerà, io sarò tra i fortunati tifosi che assisteranno all'Emirates Stadium di Londra all'amichevole Italia-Brasile. Dopo che abbiamo partecipato alle Olimpiadi di Pechino, nonostante la violazione palese e continua dei diritti umani in Cina, mi sembra alquanto strano che non si voglia far disputare il match. Per quanto mi riguarda, io sarò allo stadio insieme ad altri amici con delle magliette azzurre con la scritta Aridateci Battisti. Bruno, provincia di Salerno. Tutto lo strepitio che stanno facendo in questi giorni diversi esponenti del governo nei confronti del Brasile per la questione Battisti appare quantomeno fuori tempo massimo. Non più tardi di qualche settimana fa c'è stato a Roma l'incontro bilaterale tra il governo italiano e quello brasiliano. Lecito chiedersi di che cosa abbiano mai parlato, oltre che di calcio. Probabilmente di affari. E poi? Lula e Berlusconi, di che cosa mai hanno parlato? Di donne? Si sono raccontati barzellette piccanti a doppio senso? Non era quella la sede per affrontare e risolvere il problema, che non è certo nato in questi giorni? Forse il silenzio di Berlusconi sull'argomento non è poi casuale e la sceneggiata di richiamare l'ambasciatore o chiedere la sospensione dell'amichevole di calcio prevista per febbraio a Londra sembra più rispondere alla logica del facimme a muina di borbonica memoria che non un approccio serio alla questione. Luigi Parma. Come cittadino manifesto la personale contrarietà a qualsiasi boicottaggio di prodotti o manifestazioni che vedano interessato il Brasile, dato che distingo nettamente tra il popolo brasiliano, per il quale nutro un'istintiva simpatia e amicizia, e i suoi governanti, verso i quali occorre mantenere una forte pressione diplomatica. In questa faccenda non bisogna dimenticare le responsabilità della Francia, ma soprattutto in primo luogo quelle nostre, che hanno permesso a Battisti, già indagato, di rifugiarsi all'estero. Di ciò dobbiamo essere grati alle nostre leggi ultragarantiste, imposte a suo tempo dalla sinistra e ulteriormente ampliate dalla destra, a protezione non del cittadino comune, ma del potente. Augusto. Sono brasiliano e vorrei chiedervi se non trovate un po' esagerata la reazione italiana riguardo alla vicenda Battisti. Dico questo perché a quanto mi pare non ci sono state tutte queste proposte riguardo alla Francia durante tutto il tempo che Battisti è rimasto lì. Mi domando se questa reazione italiana non si basi forse su una visione ancora un po' imperiale, dato che quando si trattava della Francia, un paese centrale in Europa, non c'è stata tanta polemica. E ora che lui è in Brasile, un paese ancora in via di sviluppo, l'Italia non accetta la decisione sovrana presa dal nostro paese. Un grande saluto dal Brasile, Deison. Se il signor Cesare Battisti fosse stato un ex terrorista di destra, i servizi segreti francesi lo avrebbero aiutato a fuggire in Brasile? E la richiesta di estradizione dal Brasile avrebbe avuto il medesimo esito? Giovanni. Appare evidente che con l'attuale legislazione gli stupratori recentemente arrestati usufruiranno del patteggiamento o del rito abbreviato e successivamente, magari, di altri benefici e saranno condannati a 3 o 4 anni di carcere. Questo è assolutamente intollerabile. Il Parlamento deve intervenire immediatamente e prevedere un raddoppio delle pene e il divieto assoluto di applicazione di misure alternative alla detenzione, benefici vari, patteggiamento o rito abbreviato per i reati di rapina, estorsione, violenza carnale, pedofilia, omicidio. Occorre inoltre che i magistrati diano il loro contributo, evitando provvedimenti lassisti. Se non si adottano subito queste misure, che in ogni caso non potranno applicarsi ai procedimenti penali in corso, per il principio della non retroattività della legge penale, i criminali continueranno a farla da padrone. Guglielmo. Scrivo per esprimere le mie perplessità sull'affermazione del ministro Frattini riguardo l'inutilità di sospendere il trattato sulla libera circolazione delle persone provenienti dalla Romania. Qualche giorno fa, uscendo dal casello di Padova Ovest, ho assistito a una scena emblematica. Un pullman targato Romania era stato bloccato da una volante della Polstrada e da una pattuglia dei carabinieri. Tutto intorno al pullman c'erano i passeggeri, quasi tutti uomini di età non superiore ai 40 anni, che probabilmente non stavano facendo un giro turistico come pubblicizzato sulla carrozzeria del bus. Tutti lì, in attesa che finissero i controlli delle due pattuglie. Per quanto appariscente potesse essere questa pseudo dimostrazione di forza, manifestata davanti a tutti gli automobilisti in transito, credo sarebbe più efficace fermarli alla frontiera ed eventualmente negare loro l'ingresso nel nostro territorio, piuttosto che rincorrerli in giro per le nostre strade per far assistere la collettività a questi pseudo controlli. Il problema esiste. Enrico. Egregio direttore, ascoltando i vari notiziari, non c'è giorno che non apprenda di arresti di persone per i più disparati motivi: droga, estorsioni, evasione fiscale, stupri, mafie, eccetera. Direi che mediamente ve ne sono 20 o 30 per notte. Venerdì mattina ho appreso che in Piemonte 12 persone sono state arrestate e altre 70 denunciate per false rapine e falsi rapimenti, furti di auto, associazione a delinquere, eccetera. Mi chiedo se non debbano essere priorità di questa nazione, da una parte l'incremento delle attività di polizia, carabinieri, guardia di finanza e NAS, dotandoli di tutti i mezzi di indagine, intercettazioni comprese, dall'altra la costruzione di nuove carceri. Inoltre non dovrebbero essere effettuati mai più indulti, né condoni di pena. Agostino. Il caso di Pietro non deve stupire. È un recidivo opportunista. Ai tempi di Tangentopoli, l'esordio del giudice di Pietro aveva catalizzato il favore del popolo, che vedeva nella politica la corruzione e il malaffare. Qualcuno si ricorda le scritte sui muri che inneggiavano al giudice? Anche allora il nostro di Pietro aveva cavalcato l'onda del malumore popolare e aveva iniziato a sparare nel mucchio, approfittando della sua posizione e mettendo in galera anche chi non c'entrava. Oggi si ripete, cavalca l'onda del populismo. Se allora ha dimostrato poca conoscenza delle regole della giustizia, adesso dimostra di non conoscere neppure la Costituzione e le regole dell'ordinamento dello Stato. Sarebbe questo un politico che dovrebbe rappresentarci? Roberto. Ho sentito un vostro ospite fare un'apologia della Cina e al contempo criticare noi italiani. Con tutti i difetti che abbiamo, noi però siamo in democrazia, migliorabile quanto si vuole, ma non paragonabile alla dittatura cinese. Questo mi sembra venga sottovalutato. Non vorrei che tra qualche anno ci trovassimo a dover fare i conti con un'egemonia mondiale della Cina. Sarebbe una catastrofe, perché mentre l'America egemone è un paese democratico e spesso, come si è appena visto, cambia presidente e politica, la Cina invece non mi risulta abbia mai cambiato regime e ancor meno mi risulta che dibatta sulla propria politica economica o sulla propria politica estera. Mi pare che venga dato poco spazio alla crisi economica cinese, alla conseguente disoccupazione e alla grande repressione in atto in questi mesi. Vorrei che oltre a fare l'apologia alla Cina ci si ponessero anche questi problemi, proprio in questi giorni in cui Obama sta decidendo la sua politica economica e i suoi debiti con la Cina, con le conseguenze mondiali che ne verranno. Giacomo. Vedo e ascolto i sindacalisti, ospiti nelle varie trasmissioni televisive e radiofoniche, riempirsi la bocca di parole a difesa dei diritti dei lavoratori, sempre degli stessi, sempre di quelli già tutelati, iperprotetti e garantiti, e ignoranti della situazione in cui lavorano tante persone in Italia. Non si ha un'idea dello sfruttamento e delle ingiustizie che tanta gente è costretta, dico costretta, ad inghiottire per riuscire ad avere uno straccio di lavoro. Io, semplice cittadina, conosco da pochi anni una piccola realtà della Sicilia e penso che nel sud quanto sto per dire sia la regola. In nome della scarsità del lavoro si sfrutta chi lo cerca con retribuzioni sottopagate ai limiti dello schiavismo. Ora si tende forse a mettere in regola più di prima, ma sempre a svantaggio del lavoratore. Si fanno contratti al minimo sindacale per 3 ore al giorno e si spalma il reddito di 400 euro al mese su tutta la giornata, con un guadagno di 2 euro all'ora, quasi come in Cina. Oppure si decide per 1000 euro, ma in busta te ne mettono 800, oppure 400 e te ne danno 300. Ci sono commesse che lavorano tutto il giorno, sabato compreso, per queste cifre, ma il titolare risulta a posto perché il contratto c'è. Facilmente la domanda potrebbe essere: perché non denunciano? Perché accettano? Per bisogno? Per lavorare? Ti rispondono: qui non siamo al nord, qui non c'è lavoro, se vuoi è così. E allora mi domando come possano i sindacalisti non sapere che esistono queste realtà. Perché se ne stanno comodi nelle loro fabbriche e non si muovono, non si svegliano, non cominciano a difendere veramente alcune fasce di italiani che sono soli e abbandonati da chi ha la pretesa di lottare per il bene dei lavoratori? Beh, se non lo sapevano, ora gliel'ho detto io. Giulia. Caro direttore e amici ascoltatori, la situazione economica che vediamo tutti i giorni ha origine nella delocalizzazione delle imprese e della produzione nei paesi emergenti. Se per noi va male, per loro significa l'addio alla fame e alla miseria. Basta guardare le etichette con il luogo di produzione: Cina, Madagascar, Tunisia, eccetera. La stessa Fiat ha più del 51% della sua produzione nei paesi esteri, dove la manodopera è a basso costo. Le vecchie imprese non reggono la nuova concorrenza, o chiudono o si spostano in lontani paesi. Il gigantesco fenomeno della delocalizzazione non si arresterà di certo con qualche manovra finanziaria americana o europea, una tantum, e la Cina crescerà ancora, anche per i prossimi anni. Chi ha soldi da investire sposterà sempre più i suoi interessi dove il mercato avrà maggiore crescita. Il resto sono solo dettagli. Per studiare la cura e arginare il fenomeno, prima bisogna capire la malattia. Marco, Milano. Se depuriamo l'intesa appena realizzata dai sindacati, dalle molte affermazioni semplicemente esortative e dagli auspici di ulteriori interventi del governo e delle parti, peraltro del tutto facoltativi, il contenuto dell'accordo si riduce a due questioni essenziali. La prima è l'assunzione che, per stabilire l'ammontare massimo degli aumenti contrattuali dei contratti nazionali di categoria, si utilizzerà un parametro elaborato da Eurostat e che si chiama IPCA, al posto del vecchio indice dell'inflazione programmata. Apparentemente sembrerebbe un miglioramento, perché l'inflazione programmata costituisce una decisione politica e non statistica. Ma l'indice IPCA viene depurato del contributo all'inflazione apportato dagli aumenti dei prezzi dei beni energetici, energia e materie prime energetiche. Tutti sanno che questi aumenti costituiscono la principale componente dell'inflazione e la loro depurazione determinerà una riduzione strutturale del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi nei prossimi anni. La seconda questione essenziale è l'accettazione da parte del sindacato del fatto che la remunerazione degli aumenti di produttività del lavoro potrà essere presa in considerazione solo negli accordi aziendali. Oggi i contratti nazionali remunerano anche quella che si chiama la produttività media del settore. Domani non sarà più possibile. Si capisce bene perché la CGIL non ha firmato e quanto sia avventuristico pensare di riformare la contrattazione senza l'accordo del sindacato, che rappresenta la maggioranza del mondo del lavoro e dei pensionati. Franco. Colgo la palla al balzo a riguardo della gentile risposta del direttore, che diceva che i pensionati possono rappresentare una risorsa, e al successivo commento fatto da un ascoltatore in pensione. Devo dire che non sono proprio d'accordo, perché l'attuale crisi dei mercati e i licenziamenti che ne derivano non ci permettono di costruire la nostra pensione. I pensionati di oggi la pensione ce l'hanno già, pagata con i miei contributi, o no? Quindi può andare bene il pensionato con contratto di mera consulenza, ma essa non deve essere in sostituzione di un posto di lavoro di un non pensionato. E ancora, i pensionati debbono essere penalizzati fiscalmente se eseguono un lavoro extra, come era la precedente normativa. Ciò permetteva un più accettabile equilibrio. Paolo. Egregio direttore Fabi, citando Andy Warhol, il quale asseriva che tutti avranno prima o poi i loro 5 minuti di notorietà, mi viene da pensare che ci sia, da parte dei lefebriani, una precisa strategia di marketing, dove per marketing si intende fare proselitismo. Più se ne parla, più la gente si informa sulla loro comunità. Io stesso ho fatto una ricerca per capire chi sono e cosa contestano alla Chiesa post-Concilio Vaticano II. Ecco spiegato, a mio avviso, il motivo di citazioni tanto controverse, in un lasso di tempo così breve: cavalcare l'onda. che spieghino il negazionismo scientifico o l'esistenza delle camere a gas ai testimoni oculari, non ebrei, quindi non di parte, che hanno vissuto la tragedia di persona. Francesco, Siena. Gentile direttore, certi giorni a leggere il giornale viene il mal di stomaco. In giorni come questi, in cui si legge di violenze e torture su un disabile, in cui si legge di due amiche, poco più che bambine, che picchiano una compagna di classe per un ragazzo, in cui si legge di una madre e una nonna che assalgono una maestra solo per rimprovero all'alunna sbagliata. In giorni così, il mondo sembra impazzito. E come si fa a resistere alla tentazione di voltare pagina, spegnere la TV, chiudere gli occhi? Ma la frustrazione, lo sconforto, la disillusione rimangono vive e diventa persino difficile convincersi delle parole del neopresidente Obama. Parole commoventi, evocative, eppure dolorose, perché suonano come promesse difficili da mantenere, anche se la voglia di crederci è grande. Quindi, mi perdoni la domanda, so già che risposte non ce ne sono, ma a quale mondo dobbiamo guardare? Morgana. Cara Morgana, lei mi chiede a quale mondo dobbiamo guardare. Se mi permette, non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte al mondo, alla sua complessità, alle sue ingiustizie, ma anche alle tante buone notizie che ci sono, anche se fanno fatica a emergere nella realtà quotidiana. Possiamo guardare al nuovo sogno americano, alle promesse del nuovo presidente che da qualche giorno ha la responsabilità della prima potenza mondiale. Ma soprattutto dobbiamo guardare attorno a noi, al nostro prossimo, alla nostra città, ai tanti esempi di apertura e solidarietà che non fanno notizia perché fanno parte della vita normale, della consuetudine quotidiana. E dobbiamo soprattutto guardare a noi stessi, a quello che possiamo fare ognuno al proprio posto. È giusto indignarci verso le sconfitte dell'umanità, ma la speranza in un mondo migliore deve sempre accompagnarci. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.